Eccoci qua, cari amici di Radio Big World, ascoltatori e viaggiatori insieme a noi, attraverso le nostre memorie e le nostre esperienze, su e giù per l'Inghilterra, per il Regno Unito, ormai da 10 giorni alla ricerca dell'isola di Wight. Come sempre non sono solo, perché con me anche stamani c'è il socio in affari che mi supporta e mi sopporta soprattutto, ed è un giorno particolare perché, incredibile, abbiamo preso finalmente quel traghetto e siamo arrivati all'isola di Wight, precisamente nel giorno del 40° compleanno appunto del mio socio, quindi doppia festa e tanti tanti auguri. Ma bando alle ciance, siamo arrivati in questa isola, siamo arrivati a East Cove, che è una zona un po' strana perché sembra un po' retro. Sceso ci sono subito delle grandi gruppate di persone con vespe e lambrette varie, scooteristi di vari club, ma erano veramente tanti, di tanti club diversi, probabilmente c'era un raduno da quelle parti, e siamo quindi subito stati catapultati in un'atmosfera un po' retro, che in effetti ci è anche piaciuta molto. Però, rovescio della medaglia, questa parte di isola East Cove non concede grandi distrazioni, a parte abbiamo fatto amicizia con Victoria dello Ship and Castle Pub, che, incredibile, ha aperto il pub e siamo arrivati noi. Addirittura circa 5-6 minuti dopo è arrivato un signore, sicuramente del posto, autoctono, che ci è rimasto anche un po' male per non essere stato il primo ad aprire il pub. Forse lo faceva da chissà quanto tempo. In ogni caso, lo Ship and Castle è un pub molto accogliente, molto carino, e noi abbiamo anche stretto amicizia con Victoria, che ha lasciato un saluto per gli ascoltatori di Radio Big World. Hello to everybody from Big World, it's Fliss at the Ship and Castle welcoming you to the Isle of Wight. Detto questo, siamo ripartiti alla volta della parte ovest invece dell'isola. Tra l'altro abbiamo scoperto che l'isola di Wight, indifferentemente da quanto comunemente le persone pensino, è molto grande e comunque anche molto popolosa, perché abbiamo ricevuto le informazioni che dentro l'isola ci sono circa 140.000 abitanti normalmente durante tutto l'anno. Quindi siamo andati nella parte ovest che mi ha fatto subito l'impressione di est e ovest, di magari altre situazioni che anche nella storia hanno creato questa divisione. La parte est era un po' più brulla, era un po' più popolata da autoctoni o alla fine solo da persone che andavano nella parte est perché ci attraccavano con la propria nave, ma poi c'è una bella chiatta tirata con una grande catena che ti fa attraversare un piccolo lembo di mare o di fiume e ti trovi nella parte ovest che in effetti è molto diversa e è molto più turistica, vero socio? Sì, la parte west, la parte ovest chiamata West Coast, è la parte più turistica. Ci sono negozi, ci sono vetrine, ci sono ristoranti, pub, c'è musica dal vivo, c'è un proseguimento per una bella passeggiata a lungomare per chi ha voglia di farsela. Sicuramente non è un periodo che tu ci fai bagno, anche se sarebbe balneabile perché è un freddo incredibile. West Coast propone, diciamo, la parte più viva di questa cittadina. Magari altre zone dell'isola di Wight le saranno un pochino simili, tu vedrai, oppure leggermente diverse, o come le si vogliono definire, insomma. In effetti la musica che abbiamo trovato, e ci siamo stati anche svariate ore, era l'Anchor Inn, che è un pub che propone musica dal vivo, e abbiamo trovato, a parte che questo pub propone musica dal vivo tutti i giorni, e abbiamo trovato appunto una bellissima jam session dove musicisti che non si conoscevano fra di loro si alternavano e si scambiavano gli strumenti per animare il pomeriggio degli avventori. E in effetti dentro questo pub c'erano veramente tantissime tantissime persone, tra cui Chris e Virginia, che salutiamo, due signori che vivono in Murcia, e lui camionista, stato svariate volte in Italia per lavoro, e lei invece era una donna irlandese che viveva con lui e si erano trasferiti in Spagna. Sono state due compagni di pomeriggio molto carini e anche loro ricordano molto l'Italia e salutano benevolmente gli italiani. In effetti, quello che abbiamo notato è una grossa accoglienza da parte praticamente di tutte le persone con cui abbiamo avuto modo di scambiare due parole nei confronti della nostra presenza da quelle parti, anche perché forse effettivamente parti troppo turistiche non sono. Una cosa che noi abbiamo notato è che probabilmente in certe parti di mondo anche gli italiani sì, siano visti di non buon occhio, perché magari nello starci, nell'abitarci nei posti, qualcuno si è fatto anche volere un po' di male. Ma insomma, poi alla fine la giornata è andata avanti, è arrivato il momento di tornare in terraferma. L'isola, dicevamo, è molto grande, ovviamente noi abbiamo visto solo questa piccolissima cittadina, che poi forse troppo piccola non è, molto carina, vi consigliamo assolutamente di andarci. La passeggiata lungomare nella parte ovest vale la pena di essere fatta e la nostra serata poi è continuata con grandi festeggiamenti al Revolution per il compleanno appunto del mio socio. Bene, allora, detto questo, cari amici, ci auguriamo che il nostro viaggio attraverso l'Inghilterra vi abbia appassionato. Questa purtroppo sarà l'ultima volta che andremo in onda per questa pazza vacanza alla ricerca dell'isola di Wight, perché in effetti l'isola è trovata e noi abbiamo un treno per tornare a casa. Grazie a tutti gli ascoltatori di Radio Big World e vi diamo appuntamento alle prossime occasioni che avremo per stare insieme. Yeah.